c'è dall'altra? Ciao Carlo da questa. Ciao Carlo, ben sentito, è una vita che no, ho acceso adesso per vedere se funzionava ancora la macchina a vapore, ho visto che va. Dammi un controllo, fai lo biasili, sia di segnale che di radio, cambio. Allora, io ti posso dare un controllo in base alle condizioni come sono. Allora, io ho un antennino appoggiato alla ringhiera, comunque qua via Pizzetta all'inizio proprio, mi arrivi Santiago 8, Radio 4, capito, 8 pieno. KK, quindi quali sono le tue condizioni? Va bene, dai, ti ripeto, era giusto per vedere se era tutto a posto. E niente, dai, vedo che funziona. E ci siamo avanti. Puntella. E mi è arrivato. È arrivato il boss, avanti Claudio. Puntella, vabbè amico mio. Ciao. Comunque buonasera. Puntella, una bomba ci arrivendi. Una bomba, come sempre. Ehi a Claudio. C'è Carlo. Ho trovato Carlo che adesso ha acceso 30 secondi fa per vedere se funzionava tutto. Mi hai sentito anche tu, super, come sempre. Avanti Carlo. Ciao Claudio, ben sentito. Qua inizia a piovere, ho visto, e infatti ero in giro, sono dentro al palazzo, acceso a vedere se funziona ancora questa piccola stazione, ma piccola, modesta, per adesso sta andando. Va, no, io non sono col grande, sono con uno dei tanti barattini, ne stavo provando uno, ce ne sto provando un altro. Questo è un presidente Washington base con l'MB più 5. Dico che sono in cuffie, c'è una bellissima modulazione, ma soprattutto anche una buona ricezione. Capito? È vero, profe. Ah, sei sempre assente, vabbè anche io, In questi giorni mi sto un po' dedicando a questi baracchini vecchi, però anch'io molto assente dalla radio. Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato, già funziona. Tutto a posto, profe? Ehi, dai, quello che è a posto, no, vabbè, ne ho approfittato con l'occasione, siccome c'avevo l'antenna veramente messa male, l'ho scesa giù e l'ho sistemata alla bella meglio, dai. Niente, quindi ho acceso la radio per vedere se era tutto ok, stazionale a posto, strumento a posto, il mitico ZG 999, tu sai la provenienza. Comunque, 9 più a queste coordinate, la radio più che ottima, direi. Ah, già va bene, poi questi microfoni qua si addicono un po' a tutti i baracchini. Stavo provando l'Airbex, mi hanno detto appunto Tonino che andava benissimo. Oggi sto provando questo presidente Washington base, insomma, farli girare un po' questi baracchini che ho vintage, che sono tutti in uno scaffale, c'è una vetrinetta, per non stare sempre col capo, capito, già tutto qua. Ok, avanti Carlo. Eia Gianni, già va bene. Niente Claudio, io oggi ero di riposo e rientro domani mattina a lavoro. Speriamo che non piova tanto, almeno quando esco io alle 5:15. Domani devo essere a lavoro alle 6, quindi intorno a quell'ora uscirò, capito? Stasera facciamo una chiacchierata qua su 10, chi mi riesce a sentire, insomma. A te Gianni. Eia. Pensavo che la batteria dello ZG, il microfono, ci fosse scaricata, invece a quanto pare vedo che è abbastanza arzillo il microfono e anche il LED. Adesso non so voi, cioè Carlo, vabbè, mi ha dato la portiera di radio, mi ha detto che è ascoltabile. Tu Claudio come mi ascolti? Beh, bella già, amplificata la grande, segnale sei anche tu oltre il 9, ma tieni conto che non abito più a Sassari, sono alla collinetta di Serrasecca, quindi non sono più dentro Sassari, comunque la zona è abbastanza alta, ho una copertura verso Alghero della montagnetta che ci riuscirò, ma niente di che, quindi sei 9-10 pieno qua con questo baracchino. Se con motor K sicuramente sei anche più alto, quindi la radio è buonissima e va benissimo alla grande. Bene mela, squadra che vince non si tocca, avanza con tutto così, vabbè, ho messo a posto solo l'antenna, dai, che c'era il solito radialino in punta che si bigia e gli ho fatto un'altra crocchia, adesso vediamo quanto tiene, dai, e poi niente, poi rimane tutto com'è, avanti Carlo. Gianni, ricordami in che zona sei tu più o meno, giusto per regolarti, capito? Perché qua in questa situazione non so dove arrivo e dove non arrivo, per me è tutta una piccola novità, capito? Almeno finché non riesco a mettere l'antenna sul tetto. Coordinate stazione ferroviaria, piazza stazione, dai, zone circostanti, comunque siamo lì, dai. Va bene, qua arrivi benissimo, radio molto molto limpida e squillante. Bene vera, adesso non so che, insomma, eri in attivo da un po' di tempo, non so com'è la situazione qua in questo binario, boh, Claudio, che dici? Già, io poco ti posso rispondere in base al binario 10, perché io sono molto assente, nel senso che, ripeto, un po' di giorni che sto trafficcando, ma sono stato anni che non entravo, quindi mi ero promesso di riprendere in mano la situazione anche per attirare un po' di gente, un po' di amici che già stanno entrando, però so che è rimasta poca gente, qualcuno ancora trasmette, ma molti hanno lasciato, però diciamolo, è ancora in vita, il binario 10 è ancora in vita, gaffa. Bene mela, guarda, una curiosità per Carlo, ma sei attaccato oppure perché sento la voce un po' impastata? Sì, un piccolo aiutino, se no da qua non vado lontano. Ho capito, ma allora c'hai il bazooka, un antennino corto da terrazzo? Più o meno sì, hai ragione, quella roba là. Vabbè, no, me ne sono accorto perché c'è la voce leggermente ovattata, dai. E niente, tutto qua, dai. Allora, come mettersi già il baracchino di Vaggio, il Super Joe Pix, quello di Eugenio mi si è fulminata la pallina dello Smither, infatti sono andato a Fusano stamattina, ne ho comprato almeno 4-5, adesso magari più tardi se ne giocano mi diletto e gli ripiazzo la lampadina dello Smither, avanti qua. Vabbè, se la metti la lampadina non c'è qualcuno là. Non l'ho mai aperto quell'apparecchio, aspetta che ce l'ho qua a fianco, cos'è? È praticamente uguale al Summer Camp, l'Uranus, ok, Galaxy Uranus. Mamma mia, ce l'ho anche io quello, cazzo, ce l'ho anche io. Non vedi che ti sei fulminata la palia del frequenzimetro, una parte? No, quella dello Smither, qua. Vabbè, lo Smither forse è più facile. Ma io ho mezzo frequenzimetro dell'Uranus che è spento, non lo voglio toccare perché è a cristalli liquidi e è il rischio di fare danno. E quindi l'ho lasciato così, domani lo accendo a vedere, ma l'avevo già provato, funziona perfettamente, solo che una parte del frequenzimetro è spenta, capito? Bisogna portarlo da uno bravo e farle mettere, perché lì c'è un led piccolo che va saldato, è un casino, se no rischio di fare danno. Avanti Carlo. Sì Claudio, riprendo, tu come mi senti, schiacciato, vattato da quelle parti, Claudio? Sì, come ti ha detto Gianni, un po' schiacciata la modulazione, evidentemente stai dando troppo ingresso all'amplificatore, dovresti diminuire leggermente i watt del baracchino sull'amplificatore in modo che non saturi la voce, capito? Esatto, sì. Adesso provo a staccare e poi farò la regolazione. In questo passaggio sicuramente sto scendendo un po' di tutto. In questo passaggio si è sceso parecchio, però si è andato a 5, quindi il lineare funziona sicuramente. Però se riesci a darle, per esempio, ti ricordo che se ho un linearetto di macchina non li puoi dare più di 5 watt, 4-5 watt. Capito? Perché io ce l'ho quello che usavo in macchina, ma non ho bisogno di aiutini perché questa radio dà 15 watt, quindi sono più che sufficienti per farsi ascoltare. Però ti ricordo che gli ingressi di quei linearetti di macchina sono dai 4 agli 8 watt. Ok, dai 4 agli 8 watt. Se tu ne hai dai 5 e ti tira fuori 30 watt, stai già andando di lusso, secondo me. Sì, esatto, e dopo vedo un po' se riesco a passarglieli i watt, capito? Perché sto usando un'altra radio adesso, non ho quella dell'altro giorno, e giusto per rispolverare un po' le poche radio che ho, capito? E le sto provando un po' tutte. Ehi, come facciamo un po' tutti, dai, io sono abituato a parlare sempre con me. Col K, però queste radio sono un peccato, bisogna accenderle, farle funzionare, sono tutte nuove, fiammanti, io ne ho usato una, l'altro giorno avevo il Galaxy, una serie che è molto limitata, no? Il Galaxy Saturn Echo, che a Gianni piace moltissimo, a Gianni Doppio, no? A Gianni Profeta. Ieri stavo usando l'Airbex, che è un baracchino, il 4028 mi pare, sì, è un baracchino abbastanza ottimo anche quello, però è un baracchino, mentre adesso sto usando quello base, il Presidente Washington, che è una bella bestiolina, grande quanto il Galaxy. Vai Gianni di Profeta, cazzo, già lo giorno si è accoppiati che... Lasciamo PG. Per Carlo, adesso la voce veramente è ciambata, è tutta un'altra cosa, proprio cristallina, bella, limpida, una ciabarrucchia proprio. Sì, come ha detto Claudio, devo abbassare i watt di questa radio, però devo aprirla perché questa non ha la regolazione, questo è un piccolo President, capito? Di quelli da comodino proprio, piccolino, l'ho messo per quel motivo qua, però riesco a dimezzarli i watt, capito? Devo solo saldare in un altro punto e risaldare dall'altro, e così magari dando all'aiuto meno watt, magari la voce mi esce più pulita, capito? Con questa piccola. Perché ti mangia un po' la radio. Adesso ti ripeto, la modulazione è veramente ottima, cioè cristallina, bella, limpida, poco fa era proprio ovattata, molto, molto più cupa. Vabbè dai, 5 minuti e poi rimollo e provo a aprire questa radio, dai, avanti qua. Ciao Gianni, va bene, siamo qua. Dove sei Carlo, a casa o in macchina? No, a casa Claudio sono a casa, sono rientrato, prima ero in Girella, sono andato a farmi un po' di spesa e sono rientrato. Si conferma, va bene. Si conferma, sì, sta piovendo, è andato anche il passaggio alle 18, l'aver varato di un temporale, però non vedo niente, può darsi che arrivi più tardi. Diciamo che in fondo io vedo qua è tutto grigio, ma c'è foschia, non si capisce se è pioggia oppure sono nuvole basse in fondo, però sto vedendo adesso, ho visto un lampo sempre in quella direzione, quindi può darsi pure che lo faccia il temporale. No, qua c'è l'acqua, qua ha fatto due gocce, adesso vabbè, poco fa stava piovendo, adesso poi magari facciamo un attimino per vedere la situazione, comunque qua l'acqua è già arrivata. Sì, ma anche qua sta piovendo, aspetta, vado a controllare, sì, è andato un temporale di passaggio proprio nella zona alta, capito, quindi dobbiamo stare attenti, vabbè. Non ci ci vuole niente, a trovarne tutto. KK, vai Carlo un attimo che arrivo subito. Sì, qua guardando si vedono i lampi in fondo verso Muros, quella zona lì sembra più nuvoloso e appunto c'è, siccome c'è ancora un po' di luce, si vede una specie di foschia e quindi non so se da lontano è acqua oppure è l'effetto delle nuvole, della luce che si sta abbassando adesso perché sta per fare buio, è pure nuvoloso, quindi non è molto, però le nuvole mi sembrano belle cariche, quelle che sono in giro. Vai Gianni. L'aria è bella nera e compatta, nuovo è basso, sono cariche d'acqua. Adesso c'è stata una piccola tregua, in casa c'ho la roba in terrazza, la roba stesa, non ne ho voglia di salire a staccarne tutto, vabbè. Vediamo un po' dopo, là, se è il caso, comunque, ancora un altro paio di passaggi e poi vi lascio. Campa Gianni, non preoccuparti, tanto anche io mi metto a fare qualcosina qua e rimango in ascolto. Se dopo ti fai sentire già dovremmo essere ancora qua, magari entra qualcun altro. Eia, sì, ne approfitto adesso, ti ripeto, voglio scoperchiare l'Uranus per vedere com'è la situazione e se è fattibile da parte mia sostituire la lampadina, ma penso che sia una cosa praticabile visto che l'ho cambiata qualche anno fa anche qua, che si era fulminata e sono riuscito a sostituirla. Le ho comprate da Fusaro, 4 lampadine di quelle micro, volevo metterci il LED, quelli ad alta efficienza, però voglio rimanere sul classico. Ho capito, dai, non ti preoccupare, buon divertimento allora se fai queste cose. Lo immagino, poi quello ci vuole un po' di pazienza, capito, e ti devi mettere sul tavolo con la lente, bello comodo, capito, con tutti gli attrezzini, eccetera, se no non esci più. Va bene, ti lascio andare se hai la biancheria appesa. Riprendi Claudio se sei occupato, già sono in ascolto e nel caso ci sentiamo, dai. Gappa, adesso ho contatto con l'altra radio, meglio mi senti già. Mi stavo lasciando una cosa, lì. Oh, sì, adesso è la modulazione tua, quella ufficiale, sì, un'altra barrucchia proprio. Dai, ne approfitto per salutarvi, dai, adesso stacco e mi metto a controllare questa radiolina. Eventualmente se faccio prima e se ne aggiungare magari provo a entrare dopo. Ok, dai, salutare a tutti e due e casomai ci sentiamo più tardi. Ok? Avanti. Ehi, già, d'accordo, dai, sentiamo più tardi. Siamo già al 30, dico Alghero, anche per Carlo, che faccio due cosette, ci sentiamo dopo, ok? Questa è la radio principale. Dai, a dopo già. Vedi, su questa sei 9-10 abbondante, quindi complimenti, sempre ottima per la truppa, puntella. Ehi, va bene, dai. Ciao Carlo e a tutti gli ascoltoni, se ce ne sono, eventualmente magari ci siete o più tardi o nei prossimi giorni, ok? Quello ti permette? Ciao Gianni, a più tardi nel caso. Ciao Claudio, non ti preoccupare, fai pure, tanto io sono in ascolto, qua sono col computer e niente, quindi già sono in ascolto qua. Adesso sì, la tua radio è tornata quella che sentivo qualche anno fa, dai, bella, bella potente, bella, bella suonante. A dopo Claudio, ciao, grazie delle quattro chiacchiere. Ehi a Carlo, sentiamo dopo, dai, già sono qua in agguato. No, ma anche l'altra va bene, comunque questa è la modulazione, MC60, Kenwood, eccetera, ma anche l'altra non è male, è vero? Sì, anche con l'altra già andavi bene, solo che questa è più squillante, capito? È proprio, suona bene. Questa è professionale, vabbè, comunque, teniamo conto anche dei vecchi baracchini vintage che si devono... del buon usato. Ok, dai, ci sentiamo dopo, Carlo, sono in ascolto anch'io, ok? Devo fare un paio di chiamate. Va benissimo, non ti preoccupare, a più tardi, ciao Claudio. Ciao, anche il segnale è più alto con questa, vero Carlo? Adesso sei fondo scala con quella. Questa sta andando con 50 watt pieni, modulati, quindi quella là stava dando 12-15 modulati, più del doppio. Va bene, ci aggiorniamo dopo, ciao ciao. Ciao Benemera. Io Mike, sei un grande caso. Oggi vado a chiamare, era pariare, abbiamo visto la cosa più pari e la pariava in quella casa. E lui lo vuole bisogno, ho causato la qua. Con l'attenzione 10. Ciao Gianni, un attimo mi arrivo. Ehi, ciao Carlo. Ciao già. Buonasera, state uscendo tutti a pizzo. L'acqua vi ha fatto ricrescere. No, veramente io c'ero poco fa, entrato a pigiare il profetta, Carlo, eccetera, io mi sono staccato e stavo provando questo baracchino, questo è il President Washington con le MBP5. Va bene, è una bella radio. Eccomi. Vai Carlo, a te il microfono. E allora Gianni, come va da quelle parti? Mi sto rientrando adesso, ero da Bricco, sto rientrando adesso e stava piovendo. Mi sono rintanato in casa. Hai fatto bene, tanto quando piove poi aumenta anche il traffico, tutti impazziscono per due gocce d'acqua e quindi eviti la ressa poi a ore più tardi, perché Sassari così come inizia a piovere tutti prendono la macchina a rientrare, capito? Vai Claudio. Eia, datemi 2 minuti, 2 secondi, arrivo subito. Quindi già affidabile, si può usare questo baracchino. È una bella radio. Bella, ma c'è una bellissima ricezione, vabbè il presidente, non peraltro è il presidente, è così. Va bene, allora lo lascio un po' in funzione, lei almeno scalda, perché ieri stavo usando l'Elbex, tu non sei entrato ieri, stavo usando l'Elbex. Oggi sto usando questo presidente e così li provo tutti per vedere se sono tutti funzionanti. Riprendi con Carlo un attimo, arrivo subito. No, ieri non sono entrato perché era il mio compleanno, già lo dovessi sapere che ero compleanno lo stesso giorno. Ah, è vero, mi sono dimenticato, già auguri, sì, infatti ieri ci avevo l'aria a cena, ho dormito anche qua. E niente, ci andrà via stamattina perché dovevo andare al lavoro. Sì, infatti, anche tu sei 20-10. Va bene, dai, di nuovo auguri anche se in ritardo, ok? Sentiamo dopo. Grazie, grazie, avanti, caro. Auguroni, allora già che sei passato un giorno, dai, già, ancora già sono freschi, accettabili, dai, auguri. Ma a casa hai festeggiato perché sei uscito fuori? Grazie Carlo, no, mi hanno fatto una festa improvvisata a casa della mia ex moglie, hanno fatto una festa improvvisata e mi hanno invitato lì. Ah bene bene, allora dai, già di buona compagnia, meglio così. Meglio così, e niente, io ero prima con Claudio, era entrato come ti ha detto Claudio Gianni Lucofetta, diciamo dalla stazione, Piazza Sant'Antonio, quella zona là, stava anche lui provando alcune radio, doveva sistemarne una e niente, mi abbiamo chiacchierato 5 minuti, poi io ero in ascolto, Claudio stava facendo anche lui delle cose, io lo stesso mi stavo preparando la cena, ho sentito la tua voce, l'ho riconosciuta e ti ho risposto, capito? Capito, allora ti ho disturbato. Grazie per gli auguri, dai, sono sempre buoni accitti. E niente, vabbè, l'abbiamo festeggiata con mio figlio e niente, dai. Una festicciola così, mi hanno fatto il tiramisù, mi hanno fatto la pasta al forno, insomma, dai, siamo stati bene insieme. Bene, bene. No, niente di che, io è che mi avevo fatto un po' di spesa prima e stavo mettendo sistemato tutto, poi a farmi la cena ancora già è presto, già ci impiego poco tempo, capito? E ho finito di mettere a posto tutto, quindi sono a posto, capito? Ah, io Carlo, la sera non sto cucinando, ho imparato a fare una caprese, oppure due uova fritte con le cipolle che a me piacciono, roba veloce, dai, e non tanto pesante. E anche io la notte lo stesso mangio sempre cose leggere, capito? Per me quando mangio pesante è che mi compro una pizza una volta alla settimana, la mangio volentieri perché mi piace, però gli altri giorni mi faccio l'insalata, pomodori, mozzarella, capito? Mi giro una fettina ai ferri, capito? Con un filino di olio d'oliva e poi frutta quella, io già mangio tutto, a me piace l'uva, adesso di stagione ci sono i cacchi, capito? E già ce n'è di frutta buona in questo periodo, meno male. E anche io tra frutta e verdura non me ne devi togliere, perché per me fanno parte della mia alimentazione. Non mi devi togliere né frutta né verdura. E io la mangio molta arancia io. A me piacciono le arance moltissimo. Poi vabbè, ho mangiato albicocche, susine, un po' di tutto, pesche il periodo scorso. E adesso vabbè, ci sono i cacchi, ci sono i melograni, ci sono tutte queste frutte qua, dai. Solo che i cacchi non li posso mangiare perché sono diabetico e anche se mi piacciono, qualche volta me li porta quella di fronte che c'è la campagna. Ma sono così buoni e caro, sono quelli piccolini ma dolci dolci. Già li conosco quelli, sì, hai ragione. Ma adesso tra un po' inizia, li prendono mandarini, clementini, arance, ancora 20 giorni, ma già qualcosa ho visto, solo che erano un po' verdi, però tra una ventina di giorni quella frutta lì inizia ad uscire. Sì, infatti. E quindi sono buoni, Solo che io non mi regolo, quando ci sono mandarini me ne mangio uno dopo l'altro. Io lo stesso, a volte mi compro i clementini, quando sono buoni inizi, ne sbucci uno, due, tre, quattro, alla fine riempi il piatto di bucce e dici, cavolo, mi sono mangiato mezzo chilo di clementine. E vabbè, però la frutta già fa bene, capito? Quindi grazie a Dio già posso mangiare di tutto e non ho limitazioni, ma quando poi esageri con frutta e verdura non ti succede niente, capito? Poi ogni tanto quando mi va di fare qualche appento già mi faccio anche il minestrone, il brodo, capito? Mi compro un pezzo di carne, ci metto cipolla, carota, il sedano, capito? Poi lì mi faccio o i tortellini oppure faccio le classiche tempestine qui come pasta, capito? Ti conservi il brodo, l'indomani ci mastichi di nuovo se ti fidi. Sì, così faccio io la stessa cosa, il minestrone di verdure, con tutte le verdure praticamente me l'ho fatto l'altro giorno, me ne ho mangiato quasi un appetto, non ho mangiato altro, però ero tanto senza fare il minestrone di verdure, c'era di tutto, piselli, carote, sedano, insomma un po' di tutto. E mi è piaciuto molto, perché io lo faccio rapprendere, la sera mi piace ancora di più quando è freddo, mamma mia. Sì, è buono appena fatto, poi quando è avanzato è ancora più buono, capito? Sì, anche io lo mangio volentieri, io lo stesso quando lo faccio me ne avanza e l'indomani faccio festa lo stesso, però già mangio tutto, ogni tanto mi faccio il sugo col basilico, già mi faccio la pasta, grazie a Dio già me la cavo io e Cornelli, che anche a casa cucinavo parecchio io, poi quando non prendo la carne mi compro il pesce e mi faccio le orate al forno, capito, con le patate oppure me la faccio col sale e già so cucinare tante cose. Mi so fare il sughi di patate, senza, non quello pronto, è proprio metto a bollire le patate, eccetera. E già mi so districare ai fornelli, anche la pasta al forno so fare, faccio il ragù, capito? Quindi quando il Natale scorso avevo invitato i miei figli e ho fatto la pasta al forno io, detto, va, è più buona questa di quella che fa mamma. E vabbè, ho detto, io non sto facendo la competizione, ho detto, perché a casa la facevo sempre io e mamma magari è rimasta un po' indietro. E così mi dicono i miei figli a me. Anche mio nipote ci lecca le dita quando viene la domenica, perché la domenica lo invito sempre qua a casa. C'è sempre mio figlio e mio nipote, ci sono sempre, poi Emanuela, vabbè, a Bologna. Vabbè, adesso è in Spagna, è andato a Cordoba, mi ha mandato delle fotografie che stava camminando su questo ponteggio sospeso nell'aria, sopra le montagne, un'altezza allucinante, io non so come facevo, vabbè, soffro di vertigini, non lo farei mai. Dovevo andare in diverse città della Spagna, a Coso, come si chiama, Granada, dovevo andare, e poi dovevo andare nelle isole. Sta facendo un giro così. È bella la Spagna, quella zona lì è tutta l'Andalusia, Cordoba, Granada, capito, Coso, Valencia, tutta quella zona lì. Io sono arrivato sino a Gibilterra, lì l'Andalusia l'ho girata tutta, avevo fatto il tour una decina d'anni fa con tutta la famiglia e eravamo stati diciamo 8 giorni in tutto, però abbiamo girato un sacco. A Malaga siamo stati, Malaga è molto bella, c'è un bel porto con un sacco di attività, la sera tardi, c'è la spiaggia di Malaga, si chiama la Malaghetta, bella spiaggia, siamo stati anche lì, capito, è bella la Spagna. Ci sarei dovuto andare io una settimana fa perché mia nipote abita a Madrid e mi fa Diocca vieni che c'è il battesimo della figlioletta, e invece poi sono andato a fare i biglietti, volevo andare con mio figlio, solo di biglietti mi costava più di 300 euro perché non li ho fatti prima, perché non sapevo se mi davano giorni liberi o meno. E quindi non ci sono andato, se no, capito, se avessi organizzato da prima potevo fare una punta fine e farmi un giro anche a Coso, a Madrid, ma prima o poi ci faccio anche Madrid e voglio andare su anche a Pamplona quando c'è la festa di San Firmino, che dice che è molto bello lì. E che periodo è questa festa, non sai? E diciamo che se non ricordo male San Firmino dovrebbe essere in periodo estivo. Ma mia figlia è pazza e ha fatto anche il lancio col paracadute. Ha fatto bene, vuol dire che gli piace, è giovane e non ha le vertigini come te. Io ho mio figlio che ha quel problema, mio figlio quando ci sono le altezze, invece io e mia figlia andiamo dappertutto, non ci mettiamo limiti, capito? Anche io ne ho visto di posti alti, sono passati in posti del genere, con posti sospesi e in varie parti del mondo, torri alte, insomma, però se uno ha quel problema lì è meglio che non ci salga. No, mi viene da svenire, secondo gli altri se ci sono, se guardo giù mi viene cappuccino. Lo so, ti viene anche la nausea, eccetera, è meglio non rischiare mai, capito? Meglio tornare indietro che andare avanti per stare male. Mia figlia si definisce un vulcano in eruzione. meglio così, stasera poi non è entrato nessun altro, no Gianni? Io va bene che ho acceso tardi, non so se prima ci fosse qualcun altro, ma credo di no però, No, io ho acceso adesso Carlo, vabbè, diciamo che prima ero sul 20, stavo facendo delle prove, stasera mi ha telefonato un amico se potevo vedere se usciva di radio, invece non usciva, non lo sentivo. Stavo provando un'antenna di macchina da casa sua, non usciva, non lo sentivo. Io gli arrivavo fuori la scala, però lui non usciva. Lo so, io infatti prima ero attaccato e Gianni e Claudio mi hanno detto che stavo uscendo con la voce un po' compressa, capito, vattata, perché c'erano troppi fatti. Però questa radio che è da tavolo, piccolina, capito, gli devo ridurre i fatti, capito, però la devo aprire, questo è un paese dente di quelli piccolini che, avevo preso, perché l'altra per questo è un po' grande, magari l'altra la uso in macchina, eccetera. Però adesso sto uscendo liscio, capito? Guarda, invece adesso cambierà la radio e la voce, sicuramente il segnale radio e la voce. E adesso sì, 9.30, la voce è appena, ma pochissimo di compressione, un po' vibrante mi rimane, appena vibrante, ma non più di tanto, Carlo, sì, è abbastanza chiaro. Va bene, ma se riesco a passare il vibrante, che la devo aprire, e siccome sono qui contatti piccolini, capito, c'è un porticello, lo devo escludere e salvarne un altro, capito, gli riduce i watt così, e da 8 se ne faccia 4, così dando 4 watt solo dovrei migliorare la situazione. Sì, certo, con 4 watt esce perfetto. E vabbè, io adesso mi sono un po' che non attacco il Ruiz e adesso sono con il gas, e adesso mi sa che attacco il Ruiz, così lo faccio girare un po', e così lo senti, dai, con quel microfono che ti ho detto che avevo pagato lo vivo. E vai, già sono qua, io mi ascolto, qua c'ho il computer tutto acceso. Carlos, vai già, fai un passaggio più lungo. Questo è Ruiz, stazione base, anni 50, 50 anni di studio c'è questa razza. Ehi, questa c'ha l'eco pure, bello. Capo, se vuoi lo tolgo, si può togliere. Ne ho messo appena, come va? Va benissimo, la radio è buona. Solo che mi sembra il segnale più basso rispetto a prima, E questa esce con 4 watt, l'altra esce con 9 watt, capito? È per quello. Ma questa radio qua, se gli attacchi 747, va la grande. Io voglio, ma arrivi benissimo qua, capito? Sì, ho notato che c'era una differenza di segnale, capito? La radio è bella, però anche, diciamo, l'eco non era troppo alto, per cui rimbombava appena e lo potevi anche lasciare, non mi disturba. Cappa. E questo qui c'ha un cursore solo, puoi alzare il cursore, aumenta anche l'eco, però, capito, oltre che la radio, aumenta anche l'eco, quindi la regolazione giusta mi sembra questa, perché mi sono regolato con le cuffie. Sì, lascialo così, già va bene. Già va benissimo, a voglia. Meglio così. A Gianni Lo Profeta era una vita che non lo sentivo. Sicuramente sta lavorando, roba del genere, ma non l'ho più sentito da tanto. Sì, lo stava dicendo. Dice che era più di un anno che non entrava, eccetera. In questi giorni dice che era a casa, quindi stava un po' rivedendo le radio e tutto quanto, se funzionava. Quindi avrà un po' di cose da sistemare, però ha detto che già si farà sentire. Io avevo fatto l'incudere l'altra martente. Sto fino a una certa ora, mi faccio le cose che devo fare e poi entro in radio. Tanto. Poi scendo giù con il cane, poi me ne torno a casa, le faccio la cena e me ne vado sul divano a guardarmi internet. E io lo stesso, io infatti più o meno quando sono libero, oppure che faccio le mattine, la sera, più o meno a quest'ora, prima di cena, entro quell'oretta a fare quattro chiacchiere. E niente, infatti Gianni mi diceva, dice, volevo capire se era ancora vivo il canale 10. Sì, ho detto, magari molti sono andati via, non trasmettono più, ma qualcuno ancora c'è. Infatti ha sentito Claudio e appunto Claudio gli diceva che tu stai ancora entrando, che insomma c'era, non so se c'è ancora Tonino, l'ho più sentito io. Io già sta entrando, io non l'ho mollato mai, sono stato sempre in frequenza, non l'ho mollato, diciamo un periodo dopo che decidi con la tariga un po' non avevo voglia di modulare, perché ero un po', diciamo, preso da questa storia e un po' mi dava fastidio entrare, però poi ho ripreso. Ho capito, anche a me dispiaciuto per Natalino, mamma mia, va bene, dai. si è sentito, solo che Giulio si è iscritto a un club, di CB, di fuori però, e fanno di ex manda laterale, capito? Fanno di ex, gli hanno dato un nominativo, e fanno di ex, comunque si sono nominativi strani che sembrano nominativi di radioamatori, capito? Ho capito, sì. Evidentemente magari là parlano di più, poi in banda laterale viaggi anche lontano. Io lo stesso quando avevo l'altra stazione dove abitavo prima, la usavo la banda laterale e anche io avevo così un'iscrizione ad un club, mi avevano dato lo stesso nominativo, tutto quanto, capito? Poi ho dovuto mollare tutto, tu sai perché, quindi alla fine poi non... niente, adesso pian piano vedrò più in avanti se riesco a mettere un'antenna sul tetto, spero di sì, se me la lasciano mettere, magari cercherò di mettere un'antenna, insomma, che non sia molto vistosa e che non dia troppo nell'occhio. Vediamo un po' cosa, soprattutto se c'è un posto dove poterla mettere. Il problema è quello, che se non c'è posto sarà un grosso problema per me. Ah, penso di sì, non ci sarà la cabina dell'ascensore. Non lo so già, perché purtroppo sul tetto non puoi salire, cioè in altri condomini c'è la porticina e ci puoi salire, invece qua devi accedere dal terrazzo privato di un appartamento, capito? Quindi la rottura di palle è quella. E va bene, lo chiedi con le dovute maniere, penso che non ti facciano, mi ha detto che è una persona che state facendo amicizia e cosa, glielo chiedi con le dovute maniere, tu glielo dici, ci vai con i piedi di piombo, e vedrai che già te lo fa fare, ti fa passare, non c'è problema, anche perché per legge ti dovrebbe far passare, proprio per legge, se interviene nel scomposto ti deve far passare. Vabbè, ma speriamo di non arrivare a cose del genere, dai. Spero di sì, capito, se no così rimango limitato così proprio alle chiacchiere cittadine dove mi sentono, capito, perché non so dove, adesso ho capito, alla stazione ci arrivo, da Claudio su, nella strada di Osilo ci arrivo, da te ci arrivo, poi piano piano vediamo così questa situazione, magari metterò un'antenna che è un pochettino più prestante qua, perché adesso sto uscendo con un'antenna di macchina praticamente. Ma arrivi bene, da me arrivi bene. Io se non mi avessi detto nulla, a me prima mi arrivavi 9.30, però arrivi abbastanza bene qua. E anche di radio, la radio è buona, quindi non c'è niente da dire, è chiara la radio, è tranquilla, non è diciamo amplificata, però è bella chiara. Vabbè, dai, tanto a me interessa fare le quattro chiacchiere, dai, poi tanto le esperienze di collegamenti lontani di X già le ho fatte, grazie a Dio, quindi per le quattro chiacchiere va bene il canale 10, la banda cittadina e via, e vediamo un po', dai, poi speriamo di poter mettere l'antenna. Niente, a te Gianni. Io mi ricordo che dalla macchina ho fatto un collegamento con l'Inghilterra dal parcheggio delle Quirci, dalla macchina, con l'antenna Sigma DX, non so se te la ricordi, quella bianca e vetro-resina. Ah, quell'antenna era forte davvero, Già me ne ricordo, antenne di un tempo quelle lì, capito, però già ce ne sono anche adesso di antenne prestanti, capito, se metti la radio in macchina sì, te ne vai in postazioni così elevate, se hai una radio buona con qualche watt in banda laterale a voglia che li fai i collegamenti, capito. Quella che abbiamo preso noi, quella lì che c'ho io, quella va bene da tutte le parti, io sento a tutti, mi sento tutti bene, con segnali belli alti, va molto bene quell'antenna, però penso che non tenga molti watt, Carlo, perché la carica è fina, però io per quello che ho in macchina, che metto in macchina va benissimo, tanto lineare non ne ho, c'ha i watt suri e basta. Sì, ce l'ho anch'io uguale alla sua, l'avevo presa, io ne ho due di di antenne con la fase magnetica. Ho quella lì che in pratica si deve avvistare sulla base. Invece quella che sto usando è un'antenna della Alan che ha la farfallina, capito? Quindi ho messo un supporto sulla ringhiera, l'ho piazzata così, sta facendo massa sulla ringhiera. Va bene, va molto bene, si sente molto bene. Ah, te l'ho ripresa, infatti mi hai detto che te la volevi prendere. È fatto bene che te l'hai presa, perché quella è un'antenna che va bene. Io l'ho testata, addirittura io lo so prima di prenderla cosa ho fatto, ce l'aveva San Video con l'antenna, che me l'hanno regalata. Hanno svuotato un magazzino, questa amica, e c'era questa antenna, gliel'ha regalata, era del padre, mi pare, che era morto, e gli hanno regalato l'antenna, e l'ho provata, l'ho messo a Turbo 2001 e a fianco quella di San Video. Poi lo sai che uscivo più forte con quella di San Video che con la Turbo 2001, due segnali in più mi dava. Pensa tu. Sì, già le conosco. Le antenne di macchina le conosco un bel po' perché già ne ho usato io tante, di quelle a filo, di queste con la base magnetica, insomma. Anche se la base magnetica, quell'antenna che hai tu, che ho preso anche io, se vai ad alte velocità, stacca, capito? Io una volta andando a 140 si è staccata, capito? Meno male che è rimasta incastrata, poi si è attaccata da un'altra parte, se no avrei rischiato di perderla, e per fortuna era la sera tardi, non c'era traffico, ho sentito il rumore sulla capota, ho detto basta, qua sto perdendo tutto. Se vai entro i 100 va bene, ma se vai sopra i 100 è un po' pericolosetta quella lì. No, la mia attacca più della Turbo 2001, la Turbo 2001 mi sono staccata da andare via, te lo ricordi, mi ha fatto delle bozze della macchina, in più si è staccata tutta la base magnetica, non ho più messo, ho venduto tutti e due quelle che avevo. Sì, già mi ricordo bene. Purtroppo sono cose che succedono, vabbè, però più che altro che si può far danno alla macchina, capito? Per l'antenna già se ne trovano a comprare, non è un problema, capito? E vabbè, tutte prove sono. Comunque se vai piano in città va benissimo quella base, va benissimo, e come hai detto tu ha un bel segnale. No, io sono andato a Porto Torre, 120, tranquillamente non mi si è staccata, magari dipende anche se la macchina c'ha polvere e cose, se non attacca bene, capito? Perché questa qua attacca più dell'altra che avevo di base magnetica, quella della LEM, non serve a niente, è grande ma non attacca come deve attaccare. Probabilmente magari anche io l'ho attaccata così, c'era polvere e non aveva fatto ben presa, capito? Può darsi che quello sia anche determinante, no? Per farla attaccare meglio, se hai la capota pulita, certo che si attacca, si fa presa meglio il magnete. E io sicuramente avevo sporco, l'ho messa su e pur camminando un pochettino sopra i 120 si era staccata. Vabbè, basta andare piano, se si sa, si va a certa velocità e basta. Perché fa molto attrito, capito? Il vento fa attrito e riesce a staccarla, probabilmente. Ed è piccola quella magnetina, è piccolo, però attacca ben forte. E mo di mio perlomeno è così, è molto forte il magnete. Sì, no, già è forte, perché a volte l'ho attaccato su altre superfici e ti posso garantire che di forza ne fa anche tanta, capito, per ristaccarlo. E vabbè, vuol dire che c'era un po' di sporcizia e magari non aveva aderito bene, probabilmente anche quello, capito? Tanto adesso mi dalla macchina chi lo sta usando, non sta usando più nessuno, io lo metto ogni tanto ma non verrà nessuno, allora lo spengo e accendo la radio, perché molte volte l'ho messo anche l'Alghero a accompagnare Manuela, però no, sento nessuno, dice che almeno sul canale 15 c'è sempre gente, boh, io ho provato e non ho sentito nessuno. Sì, Alghero, siccome c'è Alessandro, mio collega, che anche lui è radioamatore, no? Infatti me l'ha detto, ma non stai più entrando, io ci arrivavo bene ad Alghero prima. E gli ho detto, purtroppo devo cambiare casa e quindi non ho più quell'antenna. Dice, perché noi ad Alghero abbiamo un po' riattivato tutto e tanta gente dice che si è arrivato la stazione, gente che ha messo le antenne. Infatti gli ho detto, in via di Concorso, di fronte alle porte c'è una palazzina lì, ho visto che hanno messo un'antenna nuova, come quella che aveva preso Natalino, come si chiama, non mi ricordo se era dell'Assidio, la Game Master, quella senza radiali, nuova, e dice che di uno anziano, di un CP anziano che dice era anni che non entrava più, adesso evidentemente ha sentito che c'è, capito, un po' di trasmissione e loro stanno sul 15, mi ha detto così, e ho detto io adesso nella situazione come sono non ci arrivo ad Alghero, ho detto a volte con la macchina parlavo con qualcuno di Alghero, capito, più di una volta.